24 di Giovanni Minoli. Il faccia a faccia. Sergio Pirozzi, 61 anni, nato a San Benedetto del Tronto, da sempre residente ad Amatrice, fin da giovane fa parte dell'associazionismo di Amatrice, vera risorsa della comunità dal 2009, e sindaco di Amatrice ed è diventato il simbolo della resistenza a tutti i problemi grandi e piccoli che il sisma ha provocato e continua a provocare. Intanto, buongiorno signor sindaco, grazie per essere qui con noi. Vuol dire che la viabilità, almeno quella da e per Amatrice, regge? Sì, è migliorata. È migliorata? Insomma, è stato un viaggio senza tragedie per arrivare. No, vabbè, ma eravamo abituati, noi stiamo ai confini dell'impero, per cui lo sai, no? però è migliorata, poi lì siamo attrezzati, per cui niente di straordinario. Spaventa. Ecco, intanto però non so se ancora nevica, ma ha nevicato tantissimo, il termometro è andato a meno 15, e nelle strutture abitative di emergenza si congela, come si resiste lì? No, le strutture abitative di emergenza ancora non sono arrivate, perché saranno consegnate le prime 25 a fine mese. Ah, e quindi dov'è che si congela? Per cui la gente, chi sta in roulotte, però ha fatto una libera scelta, anche perché c'è il CAS è il contributo di autonoma sistemazione. Cioè, per capire bene? Cioè, in pratica, dopo un'emergenza, le persone che hanno casa non agibile c'hanno tre opportunità: una di andare in strutture alberghiere, un'altra se sono persone anziane stanno nelle RSA, nelle case diciamo di riposo, e la terza ipotesi è quella di usufruire di un contributo che dà lo Stato affinché il cittadino trovi una propria diciamo sistemazione, cioè lo assiste nel per quanto ma per No, no, fino a quando non torni a casa, fino a quando nella tua casa, per cui chi magari sta in roulotte è lì che congela, si congela lì. Che ha fatto una libera scelta. Io ho nel cuore soprattutto il mondo degli allevatori, perché loro devono stare per forza. Ecco, lì. Infatti, gli animali come ve la cavate? Senza riparo sotto la neve? È lì. Ma come se la cava la regione? Perché sì. Chi è l'ente attuatore, diciamo, voi, la regione. Su 52 cantieri fino all'altro giorno, poi insomma mi sono innervosito un pochettino e c'è stata un'accelerata, erano stati consegnati solo 25 cantieri, per cui lì c'è stato un problema, secondo me dovuto anche a una gara, una maxi gara, dove era stata messa a bando tutte 52 le piattaforme, secondo tutte me insieme in un'unica gara. Sì, e invece avevo consigliato all'epoca magari di spacchettarlo, no? Magari certo. Blocchi da 5, perché se il problema c'era solo su 5. Sì, però insomma quelli che vivono nelle roulotte, dice, se hanno freddo è colpa loro? Ho capito bene? No, è colpa loro, insomma una scelta. Io penso che se vivo di scegliere in tenda, quando posso scegliere altre cose, io sono... Se sto lì dentro, chi paga il riscaldamento? Io devo pagare? No, sicuramente non io, perché c'è il contributo di autonoma sistemazione. Di quant'è questo contributo? Prima del sisma del 30 era 300 euro una persona, e se avevi dei figli, 4 persone, arrivavi a un massimo di 600. Adesso è di 900 euro al mese. No, in tutto. In tutto. Per la famiglia, per cui puoi trovare diciamo un appartamento. Tanti erano andati nella matrice solidale lì, perché c'era il mondo delle seconde case che l'aveva messo a disposizione a chi aveva perso la prima. Dopo il 30 c'è stata un po' di paura, un po' di gente, certo, è andata via anche dalle case agibili. Ora la situazione si è un po' assestata, cioè, anche qualcuno torna? Sì, torna, insomma. Vedo la paura, poi è sempre dietro l'angolo, certo. Però... Senta, sindaco Pirozzi, durante le vacanze di Natale io ho incontrato circa 200 persone proprio di Amatrice, invitate dall'imprenditore Preatoni a Sharm el Sheikh, per passare una settimana, diciamo, fuori dall'incubo del terremoto. Mi hanno molto colpito perché si sono dichiarati tutti, ed erano persone molto diverse fra di loro, tutti disponibili a sacrifici richiesti, purché i sacrifici fossero per tutti sacrifici fatti allo stesso modo. È così, Pirozzi? Sì, ma secondo me lì i sacrifici li stanno facendo. No, tanto. Cioè voglio dire, gente forte, speciale, senza paura, però chiede giustizia. Cioè, giustizia significa che non ci siano privilegi, lo ottiene questa giustizia nell'avanzamento dei lavori di risoluzione delle cose? Ma io, per quello che posso dirti io nella mia funzione, sì. Io non permetterò a nessuno di far passare davanti uno rispetto a un altro. Cioè l'organizzazione, organizzare un'emergenza così pesante, credo che richieda da parte dell'autorità, quindi del sindaco in primis, una grande credibilità, perché bisogna fare scelte e gestire soldi. È difficile, eh? Ma no, i soldi io cerco di non gestirli per niente. Giovanni, io sono abituato a dare le carte. Perché noi non abbiamo né le facoltà né le competenze, ma io penso che noi dobbiamo dare le linee guida. Ecco, noi gliele abbiamo date sul finanziamento al 100% per la prima e la seconda casa, per il finanziamento delle aree commerciali e artigianali mai previste nei precedenti sismi. E che lì sono significative invece, molto. E quelle sono state le carte che ha dato il sindaco. Ma il governo ha risposto bene? Sì, io devo essere serio fino in fondo. Se una persona si comporta bene, io faccio parte delle istituzioni, io devo dire che si comporta bene. Quando sbaglia, qualche volta è successo, come nel caso degli allevatori, io devo far presente, insomma, se no non sono credibile. Certo, ma quando è prevista la consegna di tutte le strutture abitative di emergenza? Allora, guarda Giovanni, lì prima devi vedere le case che sono dichiarate E. Significa che non si possono mettere a posto, cioè che vanno buttate giù. Devi aspettare le verifiche. Una volta che hai il quadro delle verifiche, poi devi verificare se le persone che hanno avuto casa non più agibile e ha il diritto di usufruire della struttura. Ecco, ma i tempi? I tempi, secondo me, Pasqua il 60-70% arrivano. E questo vale per Amatrice e anche per tutte le frazioni. No, no, perché noi lì abbiamo sposato un modello di varie aree, non due o tre, ma lasciando l'identità delle frazioni dove è possibile. E qual è la frazione che sta peggio? La frazione che sta peggio come distruzione è Saletta e Sant'Angelo. Ma con che criteri si danno le precedenze negli interventi? Nell'assegnazione? No, l'assegnazione, noi adesso sulla prima area abbiamo detto che sono i cittadini che fanno la domanda. Se vogliono andare, cioè, l'ordine di presentazione della domanda. Sono loro. Poi se sono di più rispetto alle case si farà un sorteggio dando solo la priorità, però quella è assoluta se c'è una persona. Cioè un sorteggio dopo la richiesta e il sorteggio? Sì, perché ci potrebbe essere qualche persona che oggi ha organizzato la sua vita, che ha segnato i figli da un'altra parte, c'è l'anziano che oggi magari non può tornare perché è freddo. L'unica priorità viene data a chi ha un'invalidità del 100%, per cui sarà il primo degli estratti, o che ha un anziano oltre 75 anni che ha oltre il 75% di invalidità, perché sai benissimo che il 62 ce l'hanno tutti. Ma il fatto che vi conoscete più o meno tutti lì aiuta a evitare privilegi o complica? No, secondo me è meglio. Però io ti dico che noi abbiamo fatto anche una convenzione con i carabinieri. Tutte le situazioni non chiare noi manderemo tutto, perché in questo momento Amatrice non si può sbagliare, perché ha avuto una solidarietà straordinaria da tutta Italia. Certo, ecco, ho sentito però che aziende locali sono state escluse a favore di altre che vengono da fuori negli appalti per la rimozione delle macerie, è vero? No, ma lì facciamola seria e chiara. Allora, la prima ordinanza, la Protezione Civile diceva che il comune poteva affidare direttamente lo smaltimento delle macerie. Stavamo parlando di un importo più o meno di 20-25 milioni d'euro. Io ho fatto un quesito dicendo chi mi autorizzava andare a trattativa per 20-25 milioni di euro. Nessuno mi ha autorizzato. Il sindaco ha dato le carte e ha passato la palla ad altri, se no il giorno dopo io c'avevo il cellulare dei carabinieri. Ma le aziende quindi locali si possono sentire tutelate in qualche modo? Ma le aziende locali lì devono essere iscritte alla white list. Vabbè, ma tu le conosci, insomma, sai se è vero o no. Sì, alle aziende locali qualcuno sta lavorando, secondo me in seguito ci sarà tempo e spazio per tutti. Insomma, chi aveva lavoro lì continuerà ad avere lavoro lì. Secondo me sì, se si mette in regola, nel senso white list dei procedimenti che si attrezza per, sì, poi dopo sta sempre alla capacità del singolo. Eh sì. Senti, visti molti soldi, ne parlate anche tu, entrati nelle casse del comune, che cosa è stato erogato ai titolari di attività produttive per rimettersi in piedi? Cioè, allora, noi lì abbiamo fatto due tipi di regolamenti, uno per dare il sostegno a chi ha perso l'esercizio commerciale, alle partite IVA, agli artigiani. Una parte lo finanziamo con contributo della regione e un altro su quel capitolo dove stanno entrando dei finanziamenti. E pure quanto lì, esattamente di cosa parliamo? Ma noi parliamo intorno di 1.200.000 euro, però adesso pure lì c'è una commissione che si è riunita sia ieri che l'altro ieri, valuta se le domande sono idonee e la settimana prossima partirà questa tranche di contributi che partirà però dal 24 agosto, per cui arriveranno delle somme. Io ho ritenuto, noi abbiamo ritenuto giusto dare un sostegno a chi aveva perso tutto e non aveva niente. Soprattutto lì, le perché quelle sono le categorie sono che stanno scoperte, quelle sono quelle scoperte. Ecco, a me risulterebbe che la Confartigianato di Rieti però ha chiesto di individuare un'area da utilizzare per depositare le attrezzature, perché naturalmente non possono stare all'aperto. C'è stata una risposta, l'avete individuato? Ma io l'ho visto ieri. Allora lì io ieri ho consigliato l'unica area pubblica che noi abbiamo che non sarà occupata dalle case a tempo, dall'area commerciale, e tutto si trova nell'area artigianale, diciamo, di Torrita. È un po' scomoda, però lì che potremmo mettere questi 8-9 grossi container per mettere dentro, esatto, tutto, quindi esatto. Praticamente una decisione presa, diciamo. Sì. Un ritardo superato, diciamo. No, ma un ritardo perché non hai aree pubbliche. Il problema è quello. Perché i contenitori li dava la Camera di Commercio. Esatto, però tu li devi mettere su aree pubbliche, se no devi avere l'autorizzazione del privato. E quindi, diciamo, il problema serio, come sempre in questi casi, è quello dello scontro con la burocrazia, che rende difficili le cose necessarie e urgenti, è vero? Sì. Questo il problema chiave. Ma il problema è questo, perché tutti ci hanno paura a fare qualcosa. Certo. Io dico che nella fase di emergenza... Perché non si riesce a costruire una zona franca dove tu decidi, si fa quello che si deve e che serve? Eh sì, se mi mettono a fianco qualcuno, dico un bel generale della Guardia di Finanza, uno dei carabinieri, un magistrato e l'ANAC, io faccio, loro controllano se le ditte, quello che fatturano è giusto, allora sì, perché se no mandano allo sbando il poro sindaco di un paese di montagna. Ecco, ma poro sindaco di un paese di montagna, il comune aiuta chi deve svuotare le case e ha bisogno di container dove mettere la roba. Sì, lì noi abbiamo fatto una convenzione, c'è un magazzino adesso ad Avezzano, un altro arriverà, perché bisognerà portare le cose che una persona riuscirà, sì, perché noi purtroppo non abbiamo aree pubbliche e avendone poche... Ma non potete comprare delle aree private, eh? No, e quando finisci, Giovanni? No, che non so. Non si finisce più, non ho mai fatto sindaco minimo di Amatrice. No, ma non è sindaco, diciamo, da Amatrice, da altre parti. Ma per rifare le case è vero che ci vorranno 6-7 anni? Ma io mi auguro di no. Il grosso problema... No, ma lì, dicendo la verità... Guarda, secondo me si può far prima, a parte che i privati non litigano tra loro, perché poi lì verranno fatto degli aggregati, dovranno scegliere un progettista, uno staff e una ditta, ma io spero che 5-6 famiglie si mettano d'accordo. E quello secondo me può essere uno scoglio. Ma il coordinamento con Errani, col commissario per la ricostruzione, funziona? Con Vasco sì, la prima settimana ci siamo scontrati, lui è emiliano, io sono un po' marchigiano, romano, abruzzese, sono un ibrido, gli emiliani sono dei grandi, diciamo, simpaticoni, però c'è il momento della simpatia e quello della non simpatia. E su cosa vi scontravate? Ma io sulla viabilità, io dicevo che era il Vietnam... Vasco mi disse 3-4 volte Er Vietnam, e dissi guarda, la quarta volta che mi dici andiamo a litigare di brutto. Da lì ci siamo conosciuti, ci stimiamo, fermo restando che lui è il commissario, ha un ruolo importantissimo. Ma cioè chi decide cosa? Come sono divise le competenze? Il sindaco non decide niente. Allora Da solo le carte, l'ho detto, 100% finanziamento. Quindi i soldi decide Errani, dove metterli, a chi darli, farli, come spendere. Sì, Sì. E lui? Quelli invece che è il capitolo nostro di emergenza terremoto, noi abbiamo due IBAN. Quello sull'emergenza terremoto sarà gestito da noi grazie alle donazioni di tutto il mondo. E quanta roba è arrivata? Noi al momento stiamo sugli 8 milioni di euro, per cui saranno tutti quelli legati all'emergenza, per cui stare vicino alle persone. Gestisci tu. Il comune c'è una rendicontazione che è puntuale. Certo. Un altro capitolo è su Adotta un'opera, noi gli abbiamo messo 110 opere pubbliche. Cioè Corriere della Sera e La Sette? No, altri che non sono solo le nostre, anzi pochissime. Noi lì tutti i soldi che sono entrati, oggi sono 3 milioni di euro, noi li daremo al commissario per ricostruire, perché lo Stato siamo noi. Ecco, ma adesso le tasse per i terremotati sono sospese, però sospese non vuol dire annullate. E a cosa serve sospendere se poi saranno pagate tutti insieme dopo, come è capitato all'Aquila, perché all'Aquila c'è gente che veramente è disperata, li si è vista arrivare tutte insieme. La grossa battaglia è questa, però qui bisognerebbe farla a Bruxelles. Allora, se tutti a Bruxelles... Ma intanto non si può fare qualcosa anche ad Amatrice? No. Se diventessero a me sì. Io andrei a Bruxelles, direi che ogni paese ci deve avere la facoltà di fare delle misure fiscali, che non è un aiuto di Stato, soprattutto nell'emergenza. Certo. Ma questa è una battaglia che bisognerebbe spostare a Bruxelles. Io ci sono stato, ho parlato con due vicepresidenti da Sassoli e Tajani, l'ho fatto presente. Poi sai, chi vuole Cristo se lo prega, dico. Senti, ma nella gara di solidarietà che c'è stata, che cos'è che ti ha sorpreso di più? No, guarda, a me non mi ha sorpreso niente. Cioè, io, te l'aspettavi? Io ho sempre immaginato, sapevo che il popolo italiano è straordinario. Questa è stata la conferma, la conferma di quello che ho sempre pensato. Ma gli amatriciani torneranno a casa loro davvero? Tornano se c'è lavoro. Appunto. E allora ecco perché è stato indispensabile avere, diciamo, finanziato al 100% sia le seconde case, ma soprattutto il mondo commerciale dell'artigianato e della ristorazione, che non c'è più. Ma a quelli sono arrivati i soldi subito? Arrivano subito i soldi per rimettersi in piedi? No, i soldi, lì arrivano le strutture con tutto quanto però funzionale. E poi sono stati stabiliti delle forme di rimborso da parte del governo, perché lì la carta le dà il commissario e il governo per far riprendere, diciamo, l'attività. Durante le vacanze di Natale tu hai invitato dei parlamentari a passare 3 giorni da voi. Quanti sono venuti? 14. È stato... Dove dormivano? In tenda? Sì. E... hai visto maturare delle sensibilità particolari? Faceva freddo in quei giorni? Sì, era freschetto. Poi sai, perché è abituato a stare a Roma, insomma. Certo. E che cosa ti ha sorpreso? Hai visto maturare delle sensibilità? Qualcosa sì. Non tanto. No, ma guarda che lì su 14, se solo due portano questa esperienza e si sentono, diciamo, coinvolti, sono due alleati in più per il sindaco. Quindi due su 14. No, dico due, tre. Poi, cioè, no, poi no, non vabbè, è che io vabbè, sto vabbè. Dentro lo spirito e nella sensibilità delle persone. No, però uno lo vede, capisce. Insomma, ad Amatrice c'era gente che non si parlava da anni. E il terremoto ha riunificato la comunità in qualche modo, no? Secondo me da una parte sì, perché io dico che nei momenti di difficoltà le brave persone diventano bravissime, quelle false escono fuori, quelli che sono cattivi, diciamo, diventano cattivi al cubo. Io ho visto parecchie persone che hanno dato il meglio di loro stessi, e questo ti dico, una bella maggioranza, dai. Poi lo sai. Senti, che mi hanno raccontato che quando è venuto il Papa a sorpresa in qualche modo è arrivato. E ha provato a convincere un vecchietto a lasciare la sua casa per andare nelle strutture di emergenza, ma non è riuscito neanche il Papa. È una leggenda metropolitana o è vero? Guarda, io non so se sia vero. Io però ti dico che tanti anziani io li sto assistendo giornalmente, perché loro, se li porti via, dopo una settimana muoiono, per cui rimangono lì, noi li assistiamo coi volontari. Non vogliono assolutamente. Quello sarebbe un grande errore. Sì. Perché se li sradichi muoiono. Ma oggi gli aiuti che servono di più quali sono? Ma secondo me la pacca sulla spalla. Cioè una grande solidarietà umana. Perché il troppo, secondo me, storpia. Soprattutto tutti quegli aiuti che sono arrivati ai bambini, io li ho stoppati, è meglio un fiore. Se gli italiani vogliono dare qualcosa, secondo me la devono dare ad altri popoli. Sì. Io oggi sapevo della tragedia ancora di Haiti. Oggi, perché poi il troppo passa a un motello che è devastante sui bambini, diciamo, soprattutto. Sì. Interessante. Ma è per mandarli a chi è meglio rivolgersi, secondo te? Qual è il canale migliore? Ma secondo me la Protezione Civile, la Croce Rossa. Sono canali che funzionano. Il Comune pure, sì. Però io dico anche la Caritas, lì ci stanno parecchie associazioni che hanno fatto tanto. Però all'Aquila abbiamo visto che dopo il tempo della solidarietà è arrivato il tempo dell'oblio. Che cosa ci insegna quell'esperienza? È che l'oblio poi fa parte anche delle parabole della vita, no? Sì. Io ma che... tu che cosa hai pensato per tenere accesi i riflettori sulla matrice? Hai una specie di cronoprogramma? Il cronoprogramma a me viene giornalmente, no? Ah, sì, cioè, bisogna trovare sempre un momento. No, ma ti sei inventato, hai invitato i politici. Insomma, ma, no, ma sono estroverso. No, adesso tra un po' dovranno tornare perché io c'ho il reportage. Hanno detto che a fine gennaio tornavano. Io ho fatto presente delle problematiche. Legate all'eccessiva lunghezza delle pratiche, vediamo se quello che loro hanno prodotto, perché lì insomma ci hanno messo la faccia. Io non l'ho invitati per fare una passerella. No, l'ho capito, ecco. Ma tu, sindaco, quanto guadagna a far sindaco? No, tantissimo. Ah sì, troppo? Sì, 660 euro nette al mese. Io però l'ho accettato, non mi lamento. Ma tu dove vivi? La io tua casa cioè è stata casa. Distrutta la tua casa? No, era parzialmente non agibile. Poi siccome ci siamo inventati radio amatrice, io l'ho messa a posto subito senza aspettare le provvidenze del governo, perché sennò qualcuno diceva il sindaco è rientrato a casa per la radio, per invece, cui qualcuno avrebbe fatto lo scoop. Invece niente. E qui noi abbiamo la radio poi, che è di informazione per la cittadinanza. Senti, ma è l'ufficio del comune? È lì? È lì dove era prima la sede del liceo scientifico. Ma aver fatto l'allenatore di calcio, perché so che facevi l'allenatore di squadra di calcio, ti è servito in questa vicenda? Capperi. Perché? Perché l'allenatore di calcio è abituato che per vincere bisogna lavorare, che bisogna sudare. Se perdi sai che dopo una sconfitta c'è una vittoria. Io sono abituato a dire che la colpa non è mai degli altri, ecco. Cioè, ma il primo che si mette in discussione è sempre il mister. È sempre il mister. C'è Domenico da Udine che dice: grazie sindaco, almeno uno che si ricorda di noi italiani. Grazie mille, Domenico. Bene. Sì, no. Ha scritto: viste su internet, però, le strutture abitative di emergenza sembrano belle, diverse, eccetera. In realtà, chi ci sta dice che sembrano delle carceri. Ma io non so chi ci è andato ad oggi, perché oggi non è stata consegnata nessuno. Una. Quella è una gara che ha fatta la Protezione Civile nel 2015. Quando hai detto che saranno assegnate? Ma noi facciamo col notaio all'inizio della settimana prossima. Io voglio però che la gente mia entra, non solo che deve essere pronta la casa, ma tutto intorno bello, per cui il marciapiede. Perché devono stare bene. Ma nell'assegnare queste case alle famiglie con figli, che hanno figli di sessi diversi, ci saranno assegnazioni diverse, camere in più, cioè si terrà conto della condizione. Certo. Questo noi l'abbiamo chiesto poi alla Protezione Civile, ci ha consigliato su come fare, perché all'inizio non era chiaro. Per esempio, padre e figlia sono 60 metri. Padre, moglie con due figli di sesso diverso sono 80 metri rispetto a 60, il massimo comunque 80 metri. Nel Molise ci scrivono: sono 14 anni, le case ancora non si ricostruiscono, stanno messi peggio. No, ma mi deprimo così. No, non voglio deprimerti, anzi, al contrario. Ecco, senti, io posso solo dire che noi siamo qui ogni volta che vorrai raccontare qualcosa, cose belle che capitano, o anche cose brutte che non dovrebbero capitare e che capitano, sappi che noi siamo qua e aspettiamo di essere soltanto coinvolti per darti una mano. Chiudiamo dicendo che, come sempre, i nostri microfoni sono aperti a chi vuole raccontare la sua storia, i suoi problemi, ha delle soluzioni da consigliare o da evitare. Telefonino, mandino degli sms, i numeri sono 800 24 00 24, il numero verde. L'SMS 349-238-6666, pubblicità. Mix 24. E allora Mario, il titolo su Pirozzi? L'irriducibile. Irriducibile. Tu Pietrangelo? Una pacca sulle spalle per ricominciare. Vero. Allora, canzone? Eccola. Now I've gone and thrown it all. chi non sa cantare all'animo rosso, dalle passioni allo storto in testa. Ed è per questo che cantavano tutti oggi stamattina per strada, per svelarsi sereni e nella più diritta gioia. Cori a cappello ovunque, nei bar, nelle edicole, nei cortili. Ha chiamato l'ispettore Volkswagen. Ha voluto questo brano per Valentina con un messaggio: ma canta sempre il maggiolone? Mario, hai la tua bolla? Bollona, cioè. Una bollona? Beh, tanto questo è un bel pezzo che se notte. Allora Giovanni, qua bisogna parlare di che cosa? Degli spioni italiani, perché è una storia meravigliosa che francamente non può non essere chiosata. Tutto finito, l'arma di distrazione di massa è esplosa come una bombetta di carnevale tra le mani dei bambini. Le mail di Draghi, Pietrangelo, le mail di Draghi, di Renzi, di Capezzone, di Monti, di Capezzone, che sui giornali ieri erano state lette e copiate e archiviate dalla Occhio Nero Spectre. Io ieri l'ho definita bene. Oggi non sono più quello che era stato raccontato ieri, strano. E cioè la notizia che ieri apriva tutta la pagina dei quotidiani come lo scoppio di una guerra, Pietrangelo, e si è sgonfiata come un soufflé che è finito sul forno sbagliato. Il Corriere ha una colonna di spalla, Il Messaggero fa un taglio, Repubblica fa un titolo di taglio basso, La Stampa un francobollo di richiamo, Il Fatto Quotidiano la cita ma in realtà per parlare di Carrai, Libero fa un pezzo, giustamente, per ridicolizzare l'inchiesta, La Verità non se la fila proprio, La Spy Story, caro Pietrangelo e caro anche Giovanni, ha fatto la fine delle cose all'italiana. È finita al tappeto con un occhio nero. Che hai da dire tu? E se ci fosse stato però Marco Carrai, l'amico del muretto di Matteo Renzi, tutto questo non sarebbe accaduto e la vicenda dei fratelli Occhionero non sarebbe successa, anzi, le mail non sarebbero state violate, tantomeno i telefonini, e solo un occhio, un solo orecchio, una sola mente oggi vigilerebbe su tutti noi. Non ci posso credere. Sì, sarebbe quella di Maria Elena Boschi. Ancora? No. E vigilando va da sé, in particolare su Renzi, che non poco scavezzacollo, e allora sì, caro Mario, che ci sarebbe un occhio nero da raccontare ogni giorno. Vabbè, senti, e vuoi fare un salamino? Salamino! Luci rosse alla Casa Bianca, manco il tempo di spegnere i lucciconi per l'addio di Barack Obama e subito prende fuoco, caro Giovanni, l'hardcore pettegolo. Non ci posso. Sì, sul futuro inquilino. Si comincia. Notti di follia a Mosca per Donald Trump. No. Sì, sigarette, caffè, pasta con l'aglio e ragazze, tante ragazze a Ritz, l'albergo, sì, nell'albergo che ospitò Obama con la sua Michelle, al Ritz, dove il parrucchino rosso che fa impazzire il mondo prese, pretese e volle la stessa camera su cui poi, oibò, fece fare alle fanciulle insomma, a modo di profanazione, quindi altro che macchina del fango, è il trionfo del Marchese de Sade, un gradino sotto o un gradino sopra, secondo i punti di vista, il bunga bunga d'Italia. E ancora una trasferito volta a Mosca. Certo, trasferito a Mosca, però sullo stesso lettone, sullo stesso lettone, perché ancora una volta il lettone moscovita a esercitare il riposo del guerriero. Ora dico, sti americani col sopracciglio, non pare vero di poter finalmente sottoporre Trump al trattamento Berlusconi. Però Giovanni, la narrazione ormai mostra la coda, la coda, la coda rasposa, la mostra. Perché quando le spie americane mandarono in onda nei telegiornali di punta, nei telegiornali russi, filmati del procuratore generale di Mosca alle prese con due signorine sul lettone, non lo rovinarono, anzi, quello aumentò di popolarità, diventò ancora più gradito alla popolazione russa. perché dovremmo dire è il lettone che traccia il solco, ma molte cose devono cambiare. E molte perciò cose devono, eccolo, cambiare qui dentro e sarò inflessibile. Intanto la chiave del portone a tutti, ma a condizione che nessuno ritorni prima delle 3 di notte. Divieto di ubriacarsi meno di 3 volte alla settimana. Divieto di cessare gli schiamazzi notturni prima dell'alba. Cene e veglioni mascherati almeno 1 al mese. Silenzio! L'assistenza ai clienti sarà affidata a giovani ed esperte infermiere con totale esclusione di monache. Giovani ed esperte infermiere con totale esclusione di monache. Perché, caro Giovanni, ancora una volta non è la realtà a inseguire la commedia, ma la commedia a costruire la realtà. È il lettone che traccia il solco, ma è il plin plin. È il plin plin che lo difende. Senti, questa storia è meravigliosa. Questa è bella, non male. Sì, c'è una bolla Mario ancora. Sì. Siamo proprio, siamo tornati indietro con questa, Patrick Hernandez. Allora, non è roba tua questa? Sì, no, l'ho messa io. Ah sì? Sì, sì, ah, ho avuto un momento così di così. Andare un po' indietro. Want to be alive, ci abbiamo fatto tante di queste. C'è Schipani, allora, che si dispera. No, è là, è là che le mani sulla fronte dice cosa gli è capitato a Mario stamattina. Vabbè, dai. No, senti, volevo parlare, ma proprio rapidamente, della, delle elezioni francesi, perché in realtà sì, ci sono le presidenziali e sono importantissime, come sappiamo tutti. La battaglia a sinistra è assai divertente. Ho visto un pezzo stamattina che Clermont-Ferrand si sono incrociati in giorni diversi. Valls e Macron, che sono i due rampolli nuovi di una gauche che purtroppo non ha speranze, secondo me, di vincere. Sicuramente no, ma anche il ballottaggio la vedo praticamente molto difficile. E insomma, Macron ha fatto qualche migliaio, 2000 partecipanti, e Valls 300 in una palestra mezzo vuota. Il problema è appunto quello che entrambi sono perdenti allo stato attuale. Servirà un miracolo, ci sarà secondo te? Ma non lo so. Ma intanto ci sono pacche sulle spalle per il sindaco di Amatrice. Bene. Molta gente ci scrive e ci fa, lo incoraggia, insomma, sostanzialmente. Questa è una bella cosa. Bene. Allora, canzoniere. Vorrei, prima di cedere, segnarti codesta via di fuga, labile come nei sommossi campi del mare, spuma o ruga. Ti dono anche la vara mia speranza. Ai nuovi giorni, stanco, non so crescerla. Offro impegno al tuo fato che ti scambi. 800 24 00 24, numero verde, 349 238 6666, l'SMS in aiutino, ma subito sarò generoso. Allora, sì, è la voce di Vittorio Gassman. Sì, però bisogna indovinare l'autore e il titolo della poesia. Ah, l'aiuto è dire che questo è Gassman. È Vittorio Gassman. Ah, va bene, ok. Ripeto, 800 24 00 24, numero verde, 349 238 6666, SMS. Mario, c'hai un... io vorrei tornare, ma più che un aggiornamento, io vorrei tornare con te sulla questione sollevata da Pietrangelo, sempre con grande arguzia e ironia, di Trump e il dossier, per dire una cosa. Cioè, allora, oggi il New York Times, dico il New York Times, fa un pezzo che fa precedere dalla dicitura, sostanzialmente, di dire uno straordinario ma non verificato report. Ora, voi capite bene che se non è verificato, come fa a essere anche straordinario? È un po' difficile. È straordinario ciò che è vero, altrimenti è straordinariamente falso. Certo, cioè, la sensazione è quella di una di una situazione creata come improvvisamente dal nulla per mascherare cose più importanti. Ma è una cosa incredibile. E cioè, le cose più importanti potrebbero essere le prime pagine dedicate ai problemi del sistema bancario italiano. Anche ecco, vabbè, io ho un però, po' la sensazione che, sai, ti ricordi quando andavano a arrestare i calciatori in campo per non dare le liste della P2, no? Cioè si crea un'emozione collettiva che distrae. Un pochino l'attenzione, però mi sembra che regga poco questa storia. Non regge la storia degli spioni italiani, e la storia dello spionaggio russo su Trump economica. Siamo al delirio. Allora tu capisci che una cosa del genere non funziona. Abbiamo Alessandra da Piacenza per il canzoniere. Intanto, Alessandra, buongiorno. Buongiorno. Allora dica. Casa sul mare di Eugenio Montale. Giusto! Bravissima, bravissima. Era difficile. Sì, era difficile questa. Com'è che la sa? È perché io insegno lettere. Ah, vabbè, allora il trucco è tutto lì. C'era un trucco. Grazie signora, buon lavoro. Grazie, buongiorno. Buongiorno. Viabilità. X24. L'opinione pubblica è stata scossa dalla notizia di un nuovo rapimento. Questa volta si tratta del piccolo Farouk Hassan, di appena 7 anni. Desidero fare appello alla sensibilità umana e cristiana di quanti trattengono il bambino perché lo liberino in modo da mettere fine al più presto alle sue sofferenze e a quelle dei familiari. Ecco, il 15 gennaio del 92 in Sardegna viene sequestrato un bambino di soli 7 anni, il suo nome Farouk Hassan, figlio di un albergatore. Nemmeno l'appello del Papa che abbiamo sentito all'Angelus a pochi giorni dalla scomparsa smuove i rapitori di Farouk, che resta in mano ai banditi per 6 lunghissimi mesi fino alla sua liberazione il 10 luglio dello stesso anno, in circostanze mai completamente chiarite, e con l'intermediazione di un noto grande bandito sardo, Graziano Mesina. Per i gialli della storia, dopo il giornale radio, ricostruiamo le tappe di quel sequestro, che resta uno dei più lunghi e cruenti della storia dei rapimenti in Sardegna. Mario, c'è ancora una bolla? No? Sì, un'altra cosa americana. Abbiamo il nostro amico che parla prima. L'avidità. Non trovo una parola migliore e valida. L'avidità è giusta. L'avidità funziona. L'avidità chiarifica, penetra e cattura l'essenza dello spirito evolutivo. L'avidità in tutte le sue forme. L'avidità di vita, di amore, di sapere, di denaro, ha improntato lo slancio in avanti di tutta l'umanità. Allora, ieri c'è stata, parlo dell'avidità con Gordon Gekko, ma insomma riguarda l'economia. Ieri c'è stata l'audizione per le conferme, come sai, nelle amministrazioni americane di Rex Tillerson, che è il vero uomo forte dell'amministrazione, perché sarà il prossimo capo del Dipartimento di Stato, il prossimo segretario di Stato. È stata un'audizione molto interessante, perché ha avuto un atteggiamento molto fermo sulla Russia, Giovanni, e questo era sorprendente, perché sapete tutti, e se non lo sapete lo ribadiamo, che Tillerson viene dalla ExxonMobil, che grande colosso petrolifero, certo, e veniva accusato di avere dei legami molto forti con la Russia. Bene, lui ha espresso una linea molto dura di confronto con la Russia di Putin, ma ha anche detto che non è garantito, diciamo, che si debba mantenere una linea invece dura sulle sanzioni alla Russia. Questo è molto importante, secondo me, in chiave di politica estera, rimette, riequilibra un po' per l'Italia, certo, in particolare. Quindi su questo io volevo sentire voi, perché l'amministrazione Trump su questo punto può essere un'occasione per un per paese riaprire, come l'Italia, per riaprire. Tu cosa ne pensi? Io penso che intanto le sanzioni vanno assolutamente tolte, no? E quindi, se sarà così, ovviamente per l'industria italiana, soprattutto l'ortofrutta italiana, sì, sarà un'ottima cosa. Tu, Pietrangelo? Io vorrei maliziosamente però segnalare che un eventuale ritorno in forze di Matteo Renzi nella scena politica italiana non potrebbe che ancora una volta avallare le scelte anti-russe. La russofobia ha... Però, Pietrangelo, Gentiloni una cosa l'ha detta chiarissima Gentiloni, sì, infatti, vabbè, ed è ricoverato, ma se torna quello, ma scusate, Matteo Renzi è stato l'interprete proprio della peggiore politica egemonica atlantista americana, sottoscrivendo tutte le prese di posizione più ostili verso l'Europa, e soprattutto verso la Russia. Vero, però Gentiloni, che è in continuità con Renzi, e tutti lo sottolineano, tranne Renzi, vuol dire che forse su qualche punto ci sarà una discrasia. Intanto abbiamo Giovanna al telefono, Giovanna da Roma. Giovanna, buongiorno. Buongiorno, senta, io sono nata ad Amatrice, ho casa in una frazione e risiedo a Roma. Sì. E passiamo io con la mia famiglia tantissimo tempo su perché siamo pensionati. Ora, la casa è da demolire. Quindi ci hanno promesso la ricostruzione della seconda casa. Nel frattempo, aspetti, questo è un altro discorso, perché per portare via le macerie a 40 chilometri su un camion, le strade sono antiche, i ponti sono disastrati. No, mi dica allora questa appunto. Questa costruzione sarà fra 100 anni. Nel frattempo, perché noi non ci possiamo comprare a spese nostre un container, qualcosa? Perché se viene allacciato alle fogne, all'acqua, mi hanno detto che facciamo un abuso edilizio e non si può fare. Tra l'altro si sono fatti trovare anche in privato. Ha spiegato il sindaco, mi sembra, il problema dell'acquisto dei terreni dai privati. Mi sembra che... Ma io se voglio metterlo nel mio terreno, a spese mie, tutto quanto... Non glielo lasciano mettere? Va bene, glielo diremo... allora perché non ha telefonato prima? Glielo chiedevamo al sindaco. Purtroppo l'ho sentito dopo. Allora glielo chiederemo. D'accordo. Grazie. Dovreste fare una delega alla legge, comunque. Va bene, questa mi sembra una cosa interessante da segnalare. Ecco, intanto il professor Roberto Bernabei, come sempre, ci commenta le più importanti notizie di medicina apparse sulle riviste top del mondo. Medicina, le frontiere della ricerca. Proceedings of the National Academy of Science, ottobre 2016. Il partito politico di preferenza influisce sulla prescrizione del medico? Gli elettori negli Stati Uniti sono registrati come repubblicani o democratici ed è questo il prerequisito per poter andare a votare. Quindi è facile ottenere una lista di medici che siano registrati come repubblicani o come democratici. E allora i ricercatori sono andati a vedere se la fede politica incida nell'essere medico. 1529 medici sono stati invitati a rispondere ad alcuni casi clinici. Oltre 300 hanno fatto questo test e i casi clinici afferivano a 9 casi, 5 giudicati non influenzabili dal credo politico, 4 sì. I 5 non influenzabili dal credo politico erano casi di abuso di alcol, fumo, depressione, obesità e utilizzo del casco protettivo per andare in moto. I 4 invece influenzabili dal credo politico, almeno secondo i ricercatori, erano casi riferiti a lavoratori del sesso, utilizzo regolare di marijuana, detenzione di armi in casa con bambini piccoli e aver avuto diversi aborti. I medici erano richiesti di giudicare l'importanza del problema presentato e di scegliere tra diversi possibili consigli da dare. Nei 5 casi non influenzabili, almeno secondo i ricercatori, le risposte infatti non erano diverse tra repubblicani e democratici. Nei casi invece influenzabili, ripeto, casi riferiti a lavoratori del sesso, utilizzo regolare di marijuana, detenzione di armi in casa e aver avuto diversi aborti, infatti segnatamente per l'utilizzo di marijuana e per gli aborti i repubblicani li consideravano casi molto più seri rispetto ai democratici, mentre invece era l'opposto per la detenzione di armi in casa, perché i democratici ritenevano che fosse un'oscenità, mentre invece i repubblicani la ritenevano perfettamente normale. Questo non è che voglia dire che dovete chiedere al vostro medico se è di destra, di sinistra o di centro, però certamente è evidente che la fede politica in qualche modo influenza anche l'approccio nei confronti della medicina.